Giovani talenti. Giovani talenti di Sergio Nava. L'Italia è intossicata, ha troppi parassiti. Sono gli amici e gli amici degli amici. Ed i cervelli emigrano, i cervelli fuggono. La sola cosa seria è la meritocrazia. Io conosco tantissime persone che sono di gran valore, che non trovano nessuna possibilità di lavorare perché non vengono apprezzati e valorizzati per quello che fanno. Quindi l'unica soluzione è fuggire. È tristissimo, tragico, ma è così. E se riuscissimo a inserirli nei posti di comando, a renderli classe dirigente, quanto secondo lei il nostro paese potrebbe migliorare, potrebbe cambiare? Secondo me tantissimo. Oggi dedichiamo la copertina di Giovani Talenti al video Meritocrazia che il famoso cartoonist Bruno Bozzetto ha postato online sul proprio canale YouTube. Ai nostri microfoni Bozzetto ha spiegato, lo avete appena ascoltato, il perché di questa iniziativa. Ora invece ci trasferiamo in Francia per raccontarvi un'altra storia straordinaria, un caso esemplare di giovane talento che ci siamo lasciati scappare. Non è un ricercatore, ma un manager dal calibro internazionale. In Italia oggi si ha paura dei giovani che sono qualificati. C'è una classe manageriale piuttosto anziana che ha un modo di pensare piuttosto provinciale e c'è difficoltà a dare fiducia a delle nuove leve. Paolo Fusaro, 32 anni, è un manager al lavoro per la multinazionale Carrefour a Parigi. Della sua storia parleremo tra pochi minuti. Ora spazio notiziario. L'imperativo sta diventando in Italia e in Europa quello della crescita, del tornare a crescere, dell'aprire nuove prospettive di occupazione e soprattutto di lavoro e di futuro per i giovani. In apertura le parole del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano che in occasione del 1° maggio ha ricordato l'emergenza lavoro dei giovani in Italia invocando la crescita come imperativo. Un'emergenza grave, quella della disoccupazione giovanile, balzata a marzo a quota 35,9% secondo l'Istat, mai così male da 20 anni. Peggio di noi solo Grecia, Spagna e Portogallo. Lancia l'allarme l'ONU attraverso l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, indica che la disoccupazione in Italia nel quarto trimestre 2011 ha raggiunto il 9,7%, il tasso più alto dal 2001, e aggiunge il tasso reale potrebbe risultare persino superiore. La disoccupazione giovanile è più che raddoppiata in 4 anni. Allarmante il livello dei NEET. I giovani inattivi sono 1,5 milioni. Seri problemi, conclude Lilo, esistono anche sulla qualità dei posti di lavoro creati. La tendenza positiva dell'occupazione registrata nel 2011 è venuta meno nell'ultimo trimestre e la disoccupazione giovanile continua ad aumentare raggiungendo il 17,8% tra gli under 35, a puntare il dito è Bankitalia. Ha minacciato di dimettersi Guglielmo Vaccaro, deputato PD e ideatore della legge contro esodo per le agevolazioni destinate al rientro degli espatriati under 40. Sentiamo perché nell'intervista. Attendiamo dal 22 dicembre del 2011 una nota di prassi annunciata dal governo nell'aula di Montecitorio a seguito di una mia interpellanza urgente. Ci sono centinaia, ma molto probabilmente saranno migliaia, i ragazzi in giro per il mondo interessati a tornare grazie alle agevolazioni di una legge approvata all'unanimità dal Parlamento. L'Agenzia delle Entrate non ha fornito la nota di prassi attesa né ha emanato la circolare conseguente alle modifiche che alla normativa. Una circolare necessaria a ben interpretare la legge. La circolare è fondamentale per la corretta applicazione della legge e quindi per l'accesso ai benefici. La circolare è necessaria, urgente, indifferibile. Per me oltre il 27 maggio ci sono solo le dimissioni da parlamentare. Italia in fondo alla classifica OCSE sui salari, scivola al 23° posto su 34 secondo il rapporto Tax and Wages. Siamo dietro a Spagna, Irlanda e a tutti i big europei. Il salario netto medio di un singolo senza figli è di poco più di $25,000. Pesa molto la tassazione, cuneo fiscale al 47,6%. Per l'Istat la crescita delle retribuzioni a marzo è stata la più bassa dal 1983. Giovani, abbiate coraggio, rimanere in Italia per fare ricerca è una sfida, ma è una battaglia che dovete combattere. Voi rappresentate un patrimonio straordinario di creatività e sarete la salvezza del nostro paese. Questo l'augurio rivolto ai giovani ricercatori da parte del premio Nobel Rita Levi Montalcini in occasione del suo 103° compleanno. Le università italiane devono attirare più studenti dai paesi emergenti. La penisola ne ha 8.000, la Gran Bretagna ben 46.000. L'Italia deve sviluppare un mercato del lavoro caratterizzato da maggiori professionalità e qualifiche medio-alte se non vuole perdere il treno della globalizzazione. Queste alcune delle conclusioni del rapporto Brain Drain, Brain Circulation and Brain Exchange presentato al premier Mario Monti da un gruppo di ricercatori all'estero. Candidature aperte fino al 10 maggio per la Start Cup Ricerca, Il Sole 24 Ore. Competizione aperta a tutti i ricercatori degli enti pubblici per presentare un'idea di impresa high-tech. Info su startcup.cnr.it. Parte l'8 maggio la quarta edizione dello Young International Forum, 4 giornate di incontri, dibattiti, informazioni e orientamento sulla scelta universitaria e la possibilità di formazione e scambio con l'estero. Info su younginternationalforum.com. Un motivo per restare o tornare. Il Comune di Milano lancerà entro l'estate un concorso di idee imprenditoriali da finanziare con un fondo di 400.000 euro per progetti innovativi e start-up di attività proposte da giovani espatriati. Una commissione di esperti valuterà le migliori idee da finanziare con un contributo a partire da 50.000 euro. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi vi segnaliamo: un funzionario legale per il Fondo Salva Stati Europeo IFSF a Lussemburgo. Scadenza per il CV 11 maggio. Info a hr@ifsf.europa.eu. Un Junior Marketing Specialist neolaureato a Swift a Bruxelles. Scadenza per il CV 10 maggio. Info su swift.com. E infine un professore associato in economia alla University of Edger a Kristiansand in Norvegia. Scadenza per il CV 30 maggio. Info su uia.no. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci porta dritti a Parigi, Caput Europe. Questo è un weekend molto importante per la Francia, weekend presidenziale. Nome: Paolo. Cognome: Fusaro. Età: 32 anni. Città di origine: Aosta. Studi: laurea in economia aziendale. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2004. Per andare dove? Prima in Spagna e poi in Francia. Perché? Per cercare nuovi stimoli e ambire ad una carriera internazionale. Quale lavoro svolgi attualmente? Manager della marca propria Carrefour. Dove? A Parigi. Tornerai? Dubito vista la situazione economica attuale. Ridans 5 milioni di amici trasporta idealmente in Francia. Paolo, iniziamo da una considerazione che ha inviato a giovanitalenti@radio24.it, che illustra meglio di qualsiasi cosa la differenza tra Italia e Francia. A Parigi, è scritto, si impara ad avere grandi ambizioni e a osare. Negli ultimi anni ho spesso sentito la nostalgia dell'Italia, ho pensato a un ritorno, ma dopo parecchi curricula inviati, le poche risposte ricevute sono state sempre le stesse: troppo qualificato. Paolo, non è un controsenso pazzesco? Effettivamente sì, penso che in Italia oggi ci sia paura dei giovani che sono qualificati, c'è una classe manageriale piuttosto anziana che ha un modo di pensare piuttosto provinciale e c'è difficoltà a dare fiducia a delle nuove leve. La tua carriera si contraddistingue per una forte impronta internazionale fin dagli studi universitari, tra poco scopriremo perché. Prima però partiamo dai tuoi studi, economia aziendale a Torino, perché? Diciamo che era un corso di laurea piuttosto generale, io non avevo una chiara predilezione per un corso di laurea più tecnico, più preciso. Tu hai avuto la fortuna, forse è meglio dire il merito, di trascorrere 3 dei 5 anni di università all'estero. Dove, ma soprattutto perché questa scelta così netta? Spagna, Brasile e Argentina. Come mai? Sono state delle borse di studio che mi hanno permesso di avere delle buone opportunità all'inizio. Poi, una volta che uno si abitua a vivere e a studiare in un contesto internazionale, è difficile tornare indietro. L'università ti ha aiutato o ostacolato in questa scelta così radicale? Essere esploratori, aprire nuove strade, è apprezzato nei nostri atenei? Io penso che l'Italia non valorizza abbastanza queste scelte e piuttosto si dà importanza in Italia ai voti. Penso che il problema sia piuttosto posizionare gli incentivi che si danno ai giovani per partire ad acquisire un'esperienza internazionale. Chiudiamo il capitolo universitario. Qual è il tuo giudizio sulla formazione ricevuta in Italia nel complesso? È una formazione molto teorica, si dà molta poca importanza a svolgere degli stage, delle esperienze in aziende e si è molto distante dal vero mondo dell'impresa. A questo punto inizia la tua ricerca di lavoro in Italia, alla quale dedichiamo pochi secondi. Vogliamo dire quale fu l'unica, e sottolineo l'unica, offerta di lavoro che hai ricevuto nella penisola? Posto di lavoro in banca, in una banca valdostana, piuttosto sottopagata. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti, non te ne accorgi ma da qua se ne vanno tutti. Crescere a contatto con culture diverse, imparare nuove lingue è stata la mia fortuna che mi ha permesso di poter ambire a qualcosa di più che un lavoro precario e sottopagato in Italia. Commenti a giovanitalenti@radio24.it. La tua prima tappa lavorativa all'estero in Spagna, presso la compagnia aerea Iberia a Barcellona. Come ci arrivi e per fare cosa? Diciamo che ero a Barcellona per cercare lavoro, era un'epoca in cui la Spagna offriva parecchie opportunità. Ho potuto avere questa offerta che mi permetteva di occuparmi della comunicazione e del marketing per il mercato italiano, anche se diciamo che è piuttosto un posto da scrivere. In Spagna l'esperienza dura però pochi mesi, la posizione appunto non ti soddisfa e così decidi di iscriverti dopo una durissima selezione a un Junior MBA all'École de Commerce di Parigi per studiare cosa, ma soprattutto quale valore aggiunto ti ha fornito sul mercato del lavoro questa esperienza. È una formazione di tipo manageriale, management, ottimi docenti e il grande valore aggiunto sono stati non tanto i temi trattati quanto i lavori di gruppo. Attenzione a quello che accade ora, perché il tuo curriculum iperqualificato in Francia non costituisce come in Italia un problema, anzi inizia inizi subito a lavorare in una società di consulenza finanziaria, poi dopo 2 anni il passaggio al gigante della grande distribuzione Carrefour presso la direzione finanziaria. Allora, come si trova il lavoro in Francia? Ci sono anche Oltralpe quei meccanismi lunghi e opachi di selezione che molti expats denunciano in Italia, oppure tutto è più semplice e diretto? Diciamo che tutto è più semplice e diretto. In Francia il grande vantaggio è che qualsiasi università, soprattutto quelle buone, offrono grandi contatti con il mondo dell'impresa. Ed è così che ho trovato il primo lavoro, sulla borsa di studio della facoltà. Poi diciamo che il passaggio dalla società di consulenza a Carrefour è stato piuttosto facile grazie al background che avevo acquisito. A Carrefour trascorri i primi 2 anni viaggiando tra Europa e America Latina, poi cambi settore e attualmente sei manager nella direzione commerciale e marketing. In 2 parole di cosa ti occupi esattamente? Io mi occupo di un progetto di sviluppo e di innovazione della marca propria per Carrefour in Europa. C'è un aspetto che mi ha molto colpito nelle considerazioni che ha inviato a giovani talenti @radio24.it, cioè la forte responsabilizzazione dei giovani nelle imprese francesi. Nella tua equipe attribuisci importanti responsabilità a 2 neolaureati 23enni che lavorano con te. Più in generale, il datore di lavoro affermi considera il giovane un investimento su cui puntare. E in Italia, ti chiedo? Diciamo che purtroppo in Italia i giovani non sono formati per essere autonomi sin dal primo lavoro, a differenza della Francia in cui i neolaureati possono assumere delle grandi responsabilità sin dall'inizio. Diciamo che manca in Italia, secondo me, un tessuto di medio grandi imprese che possano essere competitive a livello internazionale, che possano offrire buone opportunità interessanti ai giovani. E qui ci arriviamo, una considerazione da manager, qual è il nostro problema? Abbiamo una struttura produttiva che respinge i manager, oppure i pochi posti disponibili sono lottizzati da un sistema vecchio, corporativo, profondamente immeritocratico? Chi c'è oggi al tuo posto in Italia? Io vedo che la gente che c'è al mio posto in Italia sono manager con molta più anzianità, gente che parla le lingue molto meno bene di me, insomma gente che è molto provinciale. Trovo assurdo che un manager con la tua preparazione arrivi a scriverci: se tornassi oggi dovrei probabilmente accettare un posto meno interessante di quello attuale. Quanti curricula hai inviato finora e quante risposte hai ricevuto dall'Italia? Diciamo una 50 di curriculum e una sola risposta. Interessante? No. Domanda di rito: come vedi l'Italia dall'estero, cosa c'è che non va e una proposta concreta da cui ripartire? Manca una classe dirigente giovane che abbia acquisito delle esperienze interessanti all'estero e che possa apportare queste conoscenze in Italia. Giovani talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Paolo Fusaro, 32enne manager al lavoro per la multinazionale della grande distribuzione Carrefour a Parigi. Paolo vi giunge dopo una laurea in economia aziendale intervallata da lunghi periodi di studio all'estero tra Spagna e Sud America, un'unica offerta di lavoro in Italia da cassiere di banca sottopagato, cui ha fatto seguito un impiego di 6 mesi nel marketing in Spagna e un junior MBA a Parigi. Da lì la carriera Oltralpe è spianata, 2 anni nella consulenza finanziaria, poi il passaggio a Carrefour, dove Paolo inizia nella direzione finanziaria prima di approdare a quella commerciale e marketing. Decine curricula inviati in Italia, risposte ricevute 0. Paolo è semplicemente troppo qualificato per la penisola. Ci raggiunge ora in linea Silvestre Bertolini, coordinatore di Costituente Manageriale. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Bertolini, raccontiamo subito cos'è Costituente Manageriale, anche perché si tratta di un nuovo soggetto. Costituente Manageriale è un nuovo soggetto di rappresentanza della classe dirigente italiana, che è nato nell'agosto del 2011 per volontà sia di CIDA, che è la Confederazione Italiana Dirigenti di Azienda, e della Confedermit, che sono le 2 grandi confederazioni della dirigenza. 2,5%, secondo i dati che ci avete fornito, è questa la percentuale di dirigenti under 35 in Italia. Mi vengono alla mente le parole di Paolo: in Francia vengo rispettato indipendentemente dalla mia età. Qui invece i giovani manager li facciamo scappare se non vogliono rassegnarsi a fare i cassieri in banca? Vorrei soltanto porre la vostra evidenza che noi abbiamo 2 problematiche di base. Una è la fuoriuscita dall'Italia dei talenti, la seconda è la possibilità del rientro dei talenti. Per quanto riguarda la prima, io personalmente ritengo che sia anche corretto che i nostri giovani affrontino un'esperienza all'estero, sia nel campo degli studi, per cui universitari, sia nel campo professionale. Io credo che sia altamente formativo. Siamo d'accordo, ma sul rientro però c'è un problema oggettivo. Ecco, sul rientro c'è un problema perché in effetti si innestano tutta una serie di considerazioni. Uno è il soggetto stesso che trova benessere, tra virgolette, professionale all'estero, per cui il problema è rendere attraente anche la nostra Italia, nel senso che abbiamo purtroppo un tessuto industriale che ancora oggi non ci consente di attrarre i talenti che si formano all'estero. Abbiamo un rapporto manager dipendenti pari allo 0,85% contro una media franco-tedesca del 3%. C'è anche questo alla base della nostra crisi, nella difficoltà di disegnare strategie di politica industriale futura. Lo 0,80% è relativo alla nostra classe dirigente, per cui al contratto di dirigente, mentre in tutti gli altri paesi, anche dell'Unione Europea, non esiste questa categoria dirigenziale, esiste la categoria del manager che si estende tra la dirigenza e i quadri, per cui se noi contiamo la dirigenza in Italia in più i quadri che fanno parte della struttura imprenditoriale e industriale italiana, noi siamo più o meno allo stesso livello della Francia. Questo mi consola, questo mi consola. Questo ci deve consolare. Paolo, hai una domanda per Silvestre Bertolini? Sì, volevo chiedere un po' qual era l'impegno che ha costituente manageriale per valorizzare i giovani manager italiani. Una delle azioni principali che costituente andrà ad affrontare nei prossimi mesi sarà proprio quella della meritocrazia, per cui di cercare di attrarre e di far crescere i giovani talenti all'interno del nostro paese e di attrarre ancora di più il nostro paese per i talenti che già sono purtroppo fuoriusciti dall'Italia, per cercare di farli tornare. Grazie a Silvestre Bertolini, coordinatore di Costituente Manageriale, in bocca al lupo per questa sfida. E domanda finale, diritto per Paolo Fusaro: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando tra le varie vie di uscita a un espatrio? Consiglio lo darei soprattutto ai neolaureati, cioè il consiglio quello di fare dell'esperienza all'estero, di cercare di capire come si lavora altrove e di provare a mettersi in competizione con giovani europei. E siamo giunti allo spazio dedicato alle associazioni e alle iniziative che si occupano di quella che possiamo definire la nuova immigrazione. Oggi puntata numero 7 della nostra inchiesta sulle parole che fanno fuggire i giovani dall'Italia. Focus sul termine gerontocrazia. L'Italia è un paese per vecchi? Alessandro Rosina, professore di demografia all'Università Cattolica. L'Italia è un paese per vecchi per vari motivi. C'è sia l'aspetto demografico, cioè la popolazione anziana è in forte crescita, mentre i giovani, come conseguenza della natalità, sono sempre di meno. Però c'è anche l'aspetto che la classe dirigente si rinnova poco e gli spazi dei giovani nella politica, nella società, nel mondo del lavoro si restringono, e questo quindi accentua ulteriormente il fatto che l'Italia non sia propriamente un paese per giovani. Tra l'altro è interessante notare come varie statistiche denotano come l'età media della classe dirigente sia salita progressivamente negli anni. Esatto, questo è appunto l'aspetto centrale della gerontocrazia, cioè il fatto che il potere è nelle mani della popolazione più anziana, mentre scarse possibilità hanno i giovani di emergere e quindi occupare posizioni importanti, come succede invece normalmente in altri paesi. L'età media della classe dirigente, che era attorno ai 51 anni all'inizio degli anni 90, è ormai vicina ai 65 anni, mentre la longevità è aumentata di 4 anni nel frattempo. C'è un motivo anche culturale dietro a questo prevalere della gerontocrazia in Italia? Quelli che attualmente sono classe dirigente, cioè i 65 anni e dintorni, rappresenta una generazione che è la generazione dei giovani negli anni 60, che sono quelli che hanno fatto 68, che hanno conquistato in età giovane posizioni di potere, ma anche in ambito culturale, molto coesi tra di loro e quindi molto autoreferenziali. Ma queste, chiamiamole pure riserve indiane di giovani nei posti di potere, sono normali in Europa? No, non sono normali. Quale ruolo gioca la gerontocrazia italiana nella fuga all'estero dei giovani talenti? Fa capire che appunto chi ha un'età giovane è considerato immaturo, anziché, come negli altri paesi, essere considerato l'avanguardia del cambiamento, dell'innovazione, ed essere valorizzata appunto anche nella sua capacità di vedere la realtà con occhi nuovi e inventare nuove soluzioni. Per maggiori informazioni potete cliccare su www.degiovanimento.com. E per interagire con noi potete collegarvi online su Facebook, nel gruppo Fuga dei Talenti, o nella pagina fan Fuga dei Talenti. Potrete rispondere alle nostre discussioni settimanali, che rilanciamo anche sul gruppo La Fuga dei Talenti all'interno del portale professionale LinkedIn. Potete pure contribuire al blog aperto all'indirizzo radio24.ilsole24ore.com/blog/nava. Inviate le vostre lettere a giovanitalenti@radio24.it e le pubblicheremo sul web. Resta attiva la nuova iniziativa sui nostri canali online. Compiliamo insieme un manifesto di proposte dei giovani talenti italiani per rendere il nostro un paese dove i migliori circolano e non scappano. Aspettiamo le vostre idee. Infine, siamo sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare. Se siete under 40 ed espatriati, potete candidarvi a giovanitalenti@radio24.it. Finisce qui questa puntata di Giovani Talenti, aspetto dunque i vostri contributi via email. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30, sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.